quella relazione si articola in tre punti. Il primo punto riguarda il corpo sociale cittadino di fronte al vescovo, il secondo punto la sintesi istituzionale tra vescovo e città, il terzo punto il superamento di questa sintesi con l'instaurazione della res publica comunale. L'argomento di cui ho assunto la trattazione deve essere interpretato all'interno del tema generale del seminario, non cioè vescovi e comuni come istituzioni contrapposte sul fondamento di una distinzione concettuale fra autorità religiosa e potere politico, bensì il vescovo come portatore, sia pure in virtù del suo prestigio religioso, di una responsabilità e di una capacità politica di carattere squisitamente secolare di fronte all'emergere di un altro organismo politico prodotto dalla città. Il fascino di questo argomento, che può apparire a tutta prima vecchio e logoro, sta nell'impegno di riflessione che esige su un intreccio di istituzioni carico di ambiguità. Pensate, un'autorità religiosa insediata nella città e fornita di mezzi suoi propri di coercizione spirituale e di funzionamento, ma utilizzata in virtù appunto di questa sua peculiare efficienza per organizzare in sussidio e in sostituzione del regno coercizioni di natura violenta, in pieno contrasto dunque con la natura delle coercizioni sue proprie, a fini di protezione pubblica. Di fronte a un organismo emergente dalla società urbana e destinato a sua volta, con una sua autonoma capacità di coercizione, ad operare per i medesimi fini come res publica, in sostituzione del regno. Un problema dunque di supplenza del regno da parte di organismi ecclesiastici e cittadini compresenti. A dire il vero, la prospettiva in cui queste supplenze vengono solitamente collocate è assai meno di compresenza che di successione. Una successione effettivamente vi fu, dalla supplenza esercitata dal vescovo a quella assunta dal comune, ma appunto per intendere il significato di questo mutamento è opportuno prestare attenzione alle simultaneità e porre l'accento sull'ampiezza della fase di transizione, ricercandone la prima radice nelle strutture della società cittadina. Con ciò non si vuole anticipare il comune, supponendo funzionanti nella città dominata o in qualche modo controllata dal vescovo, organismi coordinati fra loro come la Concio o il Consilium Seniorum, in analogia con le assemblee e i consigli documentati in età comunale. Vi sono orientamenti interpretativi ben noti in tal senso, condotti alle loro estreme conseguenze per Verona, ma l'esegesi delle fonti rateriane proposta assiduamente dal Cavallari a questo fine difficilmente può essere accolta. Il tentativo coraggiosamente compiuto è stato utile proprio perché ha mostrato l'impossibilità di reperire sostegni filologicamente robusti alla tesi. Il Cavallari stesso non ha taciuto il rischio di dedurre da espressioni inserite in contesti rateriani assai vaghi la presenza di organismi precomunali definiti. Ma il problema non è quello di individuare entro una cittadinanza precomunale articolazioni istituzionalizzate, funzionanti con un minimo di delimitazione giuridica e di stabilità, bensì di cogliere la collettività stessa della città come entità autonoma in fieri, globalmente orientata già da tempo verso l'assunzione di una propria figura istituzionale. Non abbiamo infatti diritto, muovendo dalle nostre limitate esperienze, di negare a quegli antichi modi di convivenza la possibilità di esprimere volontà collettive fuori di organismi regolati. Occorre pensare al gioco delle iniziative dei maggiorenti, disposti in gruppi di spontanea solidarietà economica e sociale e in piccole gerarchie fluide secondo il rilievo via via acquisito dalle persone e dalle famiglie. Nelle minori comunità di insediamento ciò è documentabile. Basti citare l'esempio di Lazise sul Garda, dove nel 1077 alcuni pauperes homines piscatores, in realtà persone di qualche rilievo locale, poiché fra di essi sono annoverati un arciprete e un nobilis diaconus, prendono l'iniziativa di recarsi da Enrico IV a Verona perché un ampio privilegio sia concesso illis reliquisque hominibus omnibus in ipso loco habitantibus. E l'elenco di quella ventina di piscatores che giungono a Verona si apre coi membri di uno stesso gruppo parentale, presumibilmente più cospicuo di altri, un Ubertus et alius Ubertus et eorum fratres. Qui, a Lazise, cogliamo al vivo la spontaneità di una selezione che consente alla collettività locale di esprimere, attraverso una più ristretta pluralità di persone, la propria volontà. Per la collettività cittadina, ben più numerosa, il meccanismo sociale selettivo era indubbiamente più laborioso, ma sulla base del vario rilievo notoriamente assunto da milites e da negoziatores nelle città italiane, era pur sempre possibile. Gli abitanti dello spazio urbano costituivano, insomma, già in età precomunale, un corpo socialmente tutt'altro che informe, anche se non ancora giuridicamente articolato, un corpo capace di operare episodicamente o a intermittenza, ma con una propria coerenza tendenzialmente istituzionale sul piano delle grandi istituzioni del regno e dell'episcopato. Ciò chiaramente fin dal X secolo. Chi pensi ai noti precetti emanati da Berengario II e ad Alberto a favore dei genovesi e da Ottone III a favore dei cremonesi. La vicenda cremonese, in cui la collettività dovette agire di nascosto dal vescovo e vide fallire la propria iniziativa per l'intervento del vescovo, induce anzi a rivedere il giudizio ormai consueto sulla funzione storicamente esercitata dal regime vescovile nell'orientamento delle città italiane verso il regime comunale. Esigenze di libertà commerciale, già palesi fin dall'età carolingia, quando i cremonesi allestirono navi proprie per il traffico sul Po, si associarono con esigenze di libero godimento di pascoli e selve, sollecitando i cittadini omnes cives cremonenses liberos divites ac pauperes a porsi in diretto rapporto col regno e a ottenere un privilegio in cui tra l'altro si concede dalla foce dell'Adda al porto di Vulpariolo quicquid ad rem publicam pertinere noscitur, una concessione di beni e proventi che, investendo virtualmente anche il funzionamento di un porto, avrebbe orientato la collettività cittadina, se il privilegio non fosse stato revocato, ad organizzare un controllo con un nucleo di forze sue proprie, secondo l'esempio degli enti ecclesiastici. Nel caso di Cremona, il potere vescovile costituì dunque una remora alla presentazione autonoma della città sul piano delle istituzioni. Una città chiaramente matura per l'autogoverno e costretta a subire lo sfruttamento vescovile dei proventi di origine pubblica e il connubio fra regno ed episcopato. Di qui, dopo la revocazione del diploma ottoniano e il riconoscimento imposto a specifici gruppi di maggiorenti dei diritti vescovili lungo le rive del Po, l'ulteriore e prolungata conspirazio e congiurazio dei Cives e l'efficacia di una ribellione che si protrasse per decenni e vide al tempo di Corrado II la cacciata del vescovo, la distruzione delle sue fortificazioni, la rovina della città vecchia e l'iniziativa di nuove ampie costruzioni. L'intensità e la durata del movimento rivoluzionario, con la concomitante attività costruttiva, presuppongono gruppi dotati di forte capacità organizzativa. Merita rilievo l'insistenza con cui sia Corrado II sia Enrico III ingiunsero al popolo di Cremona di frequentare il placido del vescovo per garantirne il funzionamento giudiziario. Corrado II ordina ai cittadini: «Homicidas et latrones qui infra civitatem sunt, de quibus episcopus legem et justitiam facere vult, ante presentia meius conducatis, et eos legaliter judicare episcopum adiuvetis». Il vescovo in città non è dunque più in grado di esercitare il districtus nella più delicata delle funzioni pubbliche, la giustizia criminale. La capacità politico-militare è palesemente nei Cives, che detengono dei prigionieri e paralizzano la giurisdizione temporale del vescovo, non consentendogli alcuna potestatem extra portam sue domus, donde il riconoscimento stesso imperiale della necessità di un loro aiuto attivo perché la giustizia funzioni. A sua volta, Enrico III, rivolgendosi per bocca di un suo cancelliere nunzio al popolo della diocesi e della città, ingiunge a tutti di convenire al placito communiter ogni volta che sia deliberato dal vescovo e di subordinarsi alla sua coazione giudiziaria per eum sicut rectum et justum est vos constringatis, prestandogli unanime aiuto contro chi rifiuti la subordinazione. Omnes adiutorium iam dicto episcopo unanimiter prestetis contra eum qui diabolica suasione ad eius placitum venire seu per eum distringere noluerit. L'azione autonoma della città dunque persiste e si riflette anche sul contado, ponendo in crisi ovunque la giurisdizione temporale del vescovo. L'ingiunzione del cancelliere nunzio di Enrico III è infatti rivolta a un destinatario complesso: omnibus militibus vavassoribus omnique populo in episcopatu cremonensi seu incomitatu habitantibus, nec non cunctis civibus tam maioribus quam minoribus. L'espressa collocazione dei milites nel quadro territoriale della diocesi, pur non certo escludendo la presenza di milites fra i Cives maiores, dimostra che il vescovo ha un suo proprio apparato militare che, abbracciando la pluralità delle aree di presenza temporale della Chiesa vescovile, assume una figura peculiare rispetto alla collettività cittadina. Ma il parallelo disposto fra milites e Cives dimostra che la secolare tradizione cittadina di resistenza allo sfruttamento vescovile è riuscita a coinvolgere quell'apparato, il quale, a natura vassallatica, con tutti i problemi di disciplina interna propri della milizia da alcuni decenni, come a Cremona già appare fin dal 1007, quando Enrico II, per proteggere i beni della Chiesa dalle depredazioni, soprattutto frequenti nei periodi di vacanza della sede, prende sotto il suo mundeburgio il presule e i suoi chierici e famoli, decretando contro i contravventori, quando si tratti di miles ipsius ecclesiae, una multa e la perdita del beneficio tenuto ex parte ipsius ecclesiae, mentre quando si tratti di civis autosuburbanus si prevede la perdita di tutti i beni. Si può arguire da ciò che, perlomeno durante i periodi di vacanza vescovile, a cui il diploma di Enrico II fa particolare riferimento, i beni e i redditi della Chiesa e le persone addette ad essa come chierici o famoli fossero alla mercé delle iniziative e delle connivenze di Milites e Cives, connivenze favorite del resto dal fatto probabile di un reclutamento parziale dei Milites anche fra i Cives. Certo è che, per queste o per altre vie, il coinvolgimento del nucleo vassallatico nelle azioni dei Cives ci fu, per cui Enrico III si indusse ad allargare le proprie ingiunzioni alla milizia presente nel contado e al popolo egemonizzato nel contado da essa, denunciando in tal modo lo scardinamento in atto della signoria vescovile e l'orientamento di tutto il territorio verso l'accettazione della Civitas come centro di coordinazione. Una competizione dunque dal IX all'XI secolo fra un apparato temporale del vescovo gestito da chierici, da famuli e ministeriali e da vassalli e una collettività cittadina economicamente vivace, controllata e sfruttata da quell'apparato ma capace di resistenza e di affermazione autonoma intorno a gruppi di maggiorenti, di aperta ribellione e azione militare, fino a porre in crisi l'apparato del vescovo nel suo supporto armato, avviandosi così a sostituirlo nella città con l'organizzazione comunale. Se non che la vicenda cremonese, da noi scelta come testimonianza particolarmente clamorosa di una capacità politico-militare orientata in senso istituzionale e mortificata in queste sue virtualità dalla presenza ecclesiastica, ha un esito nella transizione all'età comunale a tutta prima sorprendente. Come infatti non stupirsi che sul finire dell'XI secolo, quando l'azione politica dei cremonesi si esprime ormai liberamente, al di là di ogni tradizionale contesa col vescovato e su uno sfondo addirittura europeo, la città ricerchi nella definizione della propria condizione giuridica la copertura del vescovo, si pongano a confronto l'informazione cronachistica sull'alleanza di Cremona con altre civitates di Lombardia, Milano, Lodi e Piacenza contro Enrico IV nel 1093 e l'atto di infeudazione da parte della contessa Matilde alla chiesa e alla città di Cremona nel 1098 dell'importante territorio di Crema, l'isola Fulcheria. Quell'alleanza in cui le città si fanno protagoniste dello sviluppo politico del movimento patarinico, testimonia l'ampiezza dell'autonomia che esse hanno raggiunta sul piano operativo. Eppure, l'atto di infeudazione dell'isola Fulcheria, 5 anni dopo, dimostra che a Cremona la coscienza dell'autonomia istituzionale della città è quanto mai incerta. Il tenore del documento è estremamente significativo per più rispetti. La contessa investe nomine e benefici 3 homines cremone che agiscono a parte Sancte Marie Cremonensis Ecclesiae seu ad communum ipsius Cremone Civitatis, cioè rappresentano simultaneamente la Chiesa Vescovile e gli interessi della città concepita come titolare di un patrimonio comune dei cittadini. Ma chi deve prestare il servizium corrispondente alla concessione del beneficium? La sede vescovile in quel momento è vacante e il documento precisa quod capitanei ipsius ecclesiae debent servire ad infrascriptam Matildem comitissam donec episcopus venerit, il quale vescovo, quando verrà, cum suis capitaneis seualis ceteris militibus bene serviat. Il servizium deve essere dunque prestato dall'apparato militare del vescovo e ciò ancor prima che il vescovo arrivi. Ma il documento prevede la possibilità che i capitani rifiutino. In tal caso, si capitanei ipsius civitatis servirem nolurint, ceteri homines ipsius civitatis serviant per prenominatum beneficium, il quale beneficio, si ribadisce alla fine della disposizione, deve intendersi posseduto in perpetuo dalla Chiesa Vescovile e dal Comunum della città. Qui occorrono due osservazioni. I capitani sono, a poca distanza, indicati come capitani ecclesie e come capitani civitatis. Inquadrano i ceteri milites del Vescovo ed emergono fra i ceteri homines ipsius civitatis. Costituiscono in concreto il raccordo fra la ben collaudata istituzione ecclesiastica, considerata nel suo volto temporale, e quell'istituzione ancor sempre allo stato nascente, pur se da due secoli in incubazione, che è la città come corpo sociale dotato di una propria volontà e di modi propri di funzionamento. Viene fatto di dire che il documento dichiara la simbiosi istituzionale fra Chiesa Vescovile e città e che i capitani presenti nell'una e nell'altra esprimono questa simbiosi. Ma, ecco la seconda osservazione, i capitani sono presentati come gruppo operante a sua volta con una propria volontà e capace quindi di paralizzare l'apparato militare del vescovo, necessario strumento della sua attività temporale, e di privare in pari tempo la città stessa dei suoi quadri militari normali, così da costringerla a prestare il servizium dovuto alla contessa con elementi cittadini diversi. La simbiosi istituzionale non si impernia dunque soltanto sui capitani, i quali possono far defezione senza che essa sia compromessa, perché i ceteri homines della città intervengono allora a supplire l'apparato militare del vescovo per un servizio, si badi, formalmente dovuto in primo luogo dal vescovo. La collettività sembra agire rispetto alla Chiesa Vescovile in subordine. La simbiosi non è fra due istituzioni poste allo stesso livello, ma fra un'istituzione accettata ab immemorabili dal regno e quindi dalla contessa e un'entità che, internamente divisa in gruppi di non agevole raccordo reciproco, fa ancora fatica a definirsi giuridicamente e perciò si appoggia al significato ufficiale del vescovato. Vi si appoggia formalmente a tal punto da dichiarare la volontà della Chiesa anche quando il vescovo è assente e quando il suo apparato temporale non garantisce per lui. Ma è altrettanto chiaro che in questa simbiosi la prevalenza formale del vescovo fa riscontro alla volontà prevalente della città come totalità di popolo, certo rappresentata dall'iniziativa dei maggiorenti, ma precipuamente di quei maggiorenti che diversamente dai capitani non sono in pari tempo inseriti nello specifico apparato del vescovo. Il vero interlocutore della contessa Matilde è Cremona, che d'intesa con la contessa coinvolge la Chiesa nell'azione giuridica, impegnandone il vescovo per il giorno in cui egli verrà. Ebbene, se ancora all'aprirsi dell'età comunale, quando la volontà politica del vescovato risulta affievolita, una città vivace come Cremona rinunzia a sviluppare tutta la virtualità istituzionale insita nella realtà cittadina per adagiarsi formalmente, nonostante i violenti contrasti del passato, nel solco della tradizione ecclesiastica, diventa chiaro in che senso l'ente ecclesiastico abbia potuto costituire a Cremona ed altrove una remora alla presentazione autonoma della città sul piano delle istituzioni. Sia nel caso di conflitto, sia nel caso di collaborazione, l'apparato vescovile si era imposto con la sua massiccia presenza nel cuore o ai margini della città e col suo robusto raccordo col regno alla collettività urbana. Aveva assunto con immediatezza, di fronte alla debolezza, alla crisi e al disfacimento dell'ordinamento pubblico, la responsabilità della disciplina cittadina e la rappresentanza privilegiata degli interessi della città. Di fronte al problema dei rapporti fra il regno come istanza suprema di carattere pubblico e le città mal protette dagli agenti del regno, il vescovo aveva offerto la soluzione più agevole, rendendo superflue altre soluzioni possibili, ma di più incerta e faticosa attuazione. Gli spunti di autentica autonomia della città erano stati riassorbiti, spontaneamente o coattivamente, dall'autorità vescovile, e quando essi, nonostante tutto, si svolsero, rimasero non di rado ancora celati o velati, come per Cremona si è visto, dal comodo manto dell'istituzione ecclesiastica. È bene precisare che rimasero velati nei documenti ufficiali non perché i redattori avessero una visione astratta e arretrata della realtà cittadina, ma perché veramente questa si esprimeva in connubio con la realtà vescovile. Le forme di presentazione della città, della chiesa e dei capitani nel documento cremonese del 1098 non devono essere giudicate né come un prodotto spontaneo e rozzo di chi dettava, né come effetto di una posizione dottrinaria. Esse certo possono dirsi, come disse il De Vergottini in una preziosa analisi di atti consimili, una fictio iuris, ma vorrei chiarire che la fictio iuris di tali documenti non era una finzione legale che prescindesse dalla realtà, bensì una costruzione volta a interpretare con fedeltà giuridica le forme reali di comportamento della collettività cittadina in certe sue decisioni. Forme che non toccavano le operazioni soltanto in superficie, ma le collocavano nell'ambiente culturale e non di rado anche materiale, capace di sottrarle al rischio della provvisorietà. Si pensi alle azioni giuridiche compiute nel palazzo vescovile anche quando la collettività cittadina operava in nome suo proprio, come appare in un documento del 1118, dove si legge che il populus di Cremona, per infeudare il castello di Soncino ai milites del castello medesimo, e legit in curia iusdem episcopi septem viros urbis Cremone, et precepit eis quatinus investirent populi vice eos milites per feudum de curia Soncini, e che successivamente le sette persone prescelte investirono i milites in eadem curia episcopi et in presentia e iusdem populi Cremone. Nell'episcopio l'elezione dei delegati del popolo e l'investitura dei milites assumevano un più chiaro significato ufficiale, ricollegandosi alla tradizione della città egemonizzata formalmente nei secoli dalla Chiesa vescovile. La collocazione del comune cittadino italiano di fronte alle funzioni temporali della Chiesa vescovile viene così ricondotta nelle sue prime incertezze istituzionali alle tradizioni della città, che non si identificava mai esattamente, qualunque sia il suo patriottismo, che non si identifica mai esattamente qualunque sia il suo patriottismo religioso con la Chiesa vescovile, e tuttavia convive con essa in profonda intimità, assumendo un rapporto privilegiato col vescovo, un personaggio ben definito nell'ordinamento giuridico come organo dotato di molteplici mezzi di azione finalizzati in direzioni solennemente precostituiti in un sistema di rapporti col regno quanto ambiguo altrettanto robusto, ma un personaggio in pari tempo capace di assumere, associandosi più o meno autoritariamente ai Cives e utilizzando la sua solida posizione istituzionale, la funzione ulteriore di rappresentare in un quadro di nuove ambiguità la collettività cittadina. Ma è ora giunto il momento di valutare questa ulteriore funzione nella sua complessità. Essa riduce, come la vicenda cremonese considerata nell'intero suo corso ci ha suggerito, quel valore di stimolo che hanno le crisi della potenza pubblica verso sviluppi istituzionali autonomi di carattere più esplicitamente cittadino. Ma questa constatazione non può farci dimenticare che il governo vescovile della città, nell'atto stesso in cui risolve in sé gli impulsi dei Cives verso l'autonomia, si fa strumento di una meno avventurosa realizzazione dei peculiari orientamenti della società urbana nel contesto del regno. Il manto ecclesiastico agisce insomma in due sensi: mantiene i cittadini nei limiti di una subordinazione locale al vecchio contesto delle istituzioni, ma in rapporto coi cittadini medesimi realizza un nucleo politico nuovo. Il vescovo, nella città italiana, quando supplisce alle carenze del regno, non può presentarsi puramente come un signore ecclesiastico o come un rappresentante del re. Se ne trova una marginale ma precisa testimonianza fin dalla più antica documentazione ufficiale dei suoi nuovi poteri. Si prende uno dei più significativi diplomi concessi ai vescovi da Berengario I, quello elargito nel 904 alla Chiesa Vescovile di Bergamo, un diploma di tenore incontestabile perché a noi è giunto in originale. Destinatario è il vescovo, ma con la motivazione che torri e mura siano riedificate, labore et studio prefati episcopi suorumque concilium et ibi confugentium. Potestas e defensio su torri, mura e porte della città sono conferite al vescovo, ma la riedificazione deve avvenire ubicumque predictus episcopus et concives necessarium duxerint. Si noti l'insistenza con cui il vescovo è qualificato come membro della collettività cittadina e operante insieme con i suoi concives, operante certo anche con i confugentes, coloro che si rifugiano nella città per essere protetti dalle sue mura, ma secondo un disegno che è previsto come specificamente del vescovo e dei suoi concives. La logica della concessione suggerirebbe dunque di farne destinataria la collettività dei cittadini, comunque organizzata, se non fosse la presenza in essa del vescovo, solenne vertice di un organismo ecclesiastico avente nella città la sua matrice religiosa e il suo capoluogo. Di qui una soluzione di significato intimamente ambiguo, ma conforme alle esigenze di immediato funzionamento della concessione regia. Il vertice della collettività cittadina è identificato col vertice ecclesiastico, con la conseguente rinunzia a una visione istituzionale della città a favore dell'istituzione ecclesiastica. Ciò si riflette in tutta la costruzione formale del diploma, che si apre con un prologo tratto dai consueti privilegi degli enti religiosi e culmina nella cessione alla Chiesa Vescovile di Bergamo del potere pubblico nella città. Districta vero ipsius civitatis omnia, quae ad rei publice pertinent potestatem, sub eiusdem ecclesiae tuitionis defensione predestinamus permanere. Eo videlicet ordine ut pontifex iam dicte ecclesiae qui pro tempore ipsi prefuerit, supradicta omnia ad ius et dominium ipsius ecclesiae abeat, teneat, possideat, disponat, vindicet atque iudicet. ma quest'ampia formulazione merita una considerazione attenta. Essa nasce da una contaminazione. L'attribuzione del controllo pubblico della città al vescovo, espressa dal redattore come assegnazione dei districta civitatis alla tuizio ecclesiastica, si contamina con la formula «eo vi dedicet ordine», usata pochi mesi prima nella donazione di una corte regia alla medesima chiesa vescovile di Bergamo. La formula, così nell'uno come nell'altro diploma, si chiude precisando che il vescovo terrà rispettivamente la corte e i districta pro ut omnes alias res quea pontificibus eius dem ecclesiae priscis temporibus fuerunt possesse ac vindicate, una precisazione ben congruente con la cessione di una corte, ma alquanto forzata nell'applicazione ai districta. Il potere viene inserito nella sfera patrimoniale dell'ente a significare l'autonomia politica del vescovo rispetto all'ordinamento pubblico normale del regno, ma in tal modo contaminando la responsabilità di una funzione pubblica con l'idea di un dominio e di uno sfruttamento, donde nella formula di immunità l'introduzione della città in parallelo con i fondi ecclesiastici. Ecco la direzione signorile in cui si effettua il trasferimento della città alla potenza vescovile. Ma la struttura complessiva del diploma, col suo orientamento in senso patrimoniale allodiale, non può farci dimenticare quella tensione concettuale che ha indotto il redattore ad insistere sull'idea di concives. Che la redazione del diploma, con le sue difficoltà interne di sistemazione, rispecchi la realtà, ci è suggerito da un altro diploma berengariano riguardante la distruzione di edifici situati nella città di Pavia, distruzione compiuta dai pavesi nell'imminenza di un'invasione di Ungheri. Nel diploma si legge che propter munitionem ipsius civitatis a civibus et domus districte fuerint et murus civitatis edificatus sit. È possibile che anche a Pavia, pur capitale del regno, distruzione e costruzione siano avvenute sotto la direzione dei vescovi, preminenti fra i cives e forniti dall'autorità morale e dall'apparato di potere necessari per coordinare una così complessa azione. Rimane il fatto che solo alla collettività, in quanto direttamente impegnata nell'azione, il redattore fa riferimento. Essa è la protagonista, qualunque sia l'organo ecclesiastico ed eventualmente anche pubblico intorno a cui abbia operato. Da quanto finora si è detto, risulta chiaro che una complicazione profonda si produsse in Italia nel potere temporale del vescovo, là dove si estese organicamente sulla città. Il collegamento istituzionale coi cives, nell'atto di condizionare la collettività cittadina, si ripercosse sulla natura della potenza vescovile. Ciò in verità fu percepito da gran tempo, in special modo da quegli studiosi tedeschi a cui non sfuggì la diversa condizione delle città al di qua e al di là delle Alpi, ma qualche chiarimento è opportuno. Karl Hegel, nel dare il dovuto rilievo al Selbstgefühl dei gruppi egemonici emergenti fin dall'Alto Medioevo nelle città italiane, ebbe a dichiarare, rifacendosi all'esempio di Strasburgo ma attribuendogli un valore paradigmatico per l'Europa post-carolingia, che la signoria vescovile, nelle città in cui si realizzò compiutamente, non dunque a suo parere in Italia, conferì alla collettività degli abitanti una unità giuridica non nel senso della libertà, bensì della Unfreiheit, nella forma cioè di un diritto curtense attenuato. La libertà civile, disse Karl Hegel, fu garantita dalla lotta coi vescovi, non dalla loro autorità. Non si confonda questa posizione estrema dello Hegel, non occasionale, perché ribadita nell'interpretare le discordie dei milanesi fra X e XI secolo con la prospettiva in cui abbiamo collocato Cremona e Bergamo rispetto alle iniziative vescovili. Il punto sta nel discernere che altro sono le remore esercitate con la sua stessa presenza dall'istituzione ecclesiastica di fronte a collettività virtualmente orientate verso l'autogoverno, altro è il disegno di cui non vi è alcuna prova documentaria di ridurre i Cives alla condizione dei residenti su terra ecclesiastica. Ma quando lo Hegel considerava fallito questo disegno, semplicemente mostrava di percepire la diversa natura del potere conseguito dal vescovo sui cittadini rispetto allo sviluppo delle immunità sul patrimonio fondiario. Sopra abbiamo rilevato nel caso di Bergamo la menzione della città in parallelo appunto coi fondi ecclesiastici in una formula di immunità, ma in pari tempo abbiamo rilevato l'insistente riferimento ai concives. La potestà del vescovo sui cittadini non ambiva affatto a mutarli in una pertinenza patrimoniale, se non nel senso che essa veniva attribuita alla Chiesa vescovile con gli stessi caratteri di inalienabilità e di autonomia da cui era contraddistinto il patrimonio ecclesiastico come res sacra. Ma quella potestà conservava, nel suo trasferimento dalla res pubblica alle res ecclesie, le peculiarità di un rapporto con uomini liberi, non di rado garantiti nella loro libertà individuale di azione da un possesso di beni in alloggio. Quegli omnes cives liberi, divites ac pauperes, che abbiamo conosciuti nel caso di Cremona. Ciò fu visto assai bene nel successivo sviluppo della storiografia tedesca sulle città lombarde da Max Handleucke, là dove distinse la popolazione subordinata alla signoria vescovile in due parti, quella formata, egli disse, di sudditi diretti della Chiesa, giuridicamente distinti in liberi e non liberi, ma tutti condizionati dalla residenza su terra ecclesiastica, e la popolazione soggetta soltanto ai poteri di giurisdizione del vescovo. E di recente ciò è stato ulteriormente chiarito da Gerhard Dilscher, là dove ha posto l'accento sul carattere giuridicamente pubblico, öffentlich-rechtlich, assunto dal potere del vescovo nell'organico estendersi in sostituzione del regno sulla città. Il linguaggio del Dilker merita tanto maggiore rilievo in quanto da parecchi decenni tra i medievisti tedeschi vi è un diffuso pudore nell'usare il concetto di autorità pubblica per indicare l'esercizio della forza politica anche ai livelli più alti nei secoli centrali del Medioevo. Si preferisce il meno compromettente concetto di Herrschaft, riconducendolo ad una tradizione germanica ed elementare del potere. In verità anche il Dilker impiega l'espressione Stadtherrschaft, ma per significare l'aspetto signorile del potere cittadino del vescovo, in armonia coi diplomi regi che trasferiscono alla Chiesa vescovile il dominium sui beni fiscali e lo estendono ai poteri territoriali di comando e di giurisdizione. L'altro aspetto del potere vescovile nella città è quello pubblico, nel senso sopra indicato di una funzione esercitata su una popolazione organica di liberi. Il Dilker fa anzi qualcosa di più. Traduce la sua concezione del vescovo come autorità pubblica cittadina in quella del vescovo come funzionario del re e introduce nella complessa figura di questo funzionario e signore una limitazione procedente dai diritti dei cittadini, diritti intesi come propri di una Genossenschaft. Si osservi qui anzitutto l'applicazione alle città lombarde dello schema in uso fin dal secolo scorso nel rievocare le vicende del mondo tedesco. quella che il Gierke, descrivendo il gioco dei rapporti fra Herrschaft e Genossenschaft, interpretava come Neigung des deutschen Rechtes die Gegensätze zu verbinden, è presentata dal Dilker come genericamente e tipicamente medievale. Ma il Gierke impiegava lo schema a tutti i livelli sociali e per tutte le situazioni giuridiche, anche per spiegare il rapporto fra signore fondiario e collettività contadine, fossero pure collettività di conservi, all'interno di un dominio curtense. Ora, uno schema di carattere socialmente così generale e dedotto dallo studio del mondo specificamente tedesco non può riuscire di molto aiuto per intendere le città italiane. Può anzi fuorviare da un retto giudizio sul carattere pubblico giustamente attribuito dal Dilker all'autorità cittadina del Vescovo, ma un carattere, questo è opportuno precisare, di fronte all'affermazione del Dilker, imposto non dall'assunzione formale di una rappresentanza del re, bensì dal modo di essere dei cittadini, pari al vescovo per libertà personale, capaci di corresponsabilità politica e insofferenti di qualsiasi potere inteso come sfruttamento anziché come funzione al servizio degli interessi collettivi. Questo è il nucleo politico nuovo realizzato dal vescovo nel suo collegamento coi Cives, in forme che alterano la consueta sintesi dell'istituzione ecclesiastica con la sua potenza patrimoniale ed esprimono una simbiosi diversa in cui l'orizzonte culturale della città come centro di interessi di uomini liberi spontaneamente sollecita la Chiesa Vescovile a ritrovare nella sua propria tradizione culturale l'idea di un governo esercitato al servizio di uomini liberi e in collaborazione con essi. Quanto al regno, esso offre ai nuclei di potere imperniati sulle chiese, qualunque natura essi vadano assumendo, riconoscimenti espliciti o taciti e la sua protezione, ed interviene con larga intermittenza nel loro funzionamento ecclesiastico e temporale, patrimoniale e pubblico per mantenere efficiente la rete della sua eterogenea clientela, operando come potenza territorialmente suprema, senza preoccupazioni di rigorosa coerenza con la sua funzione specificamente pubblica. Il rapporto persistente col regno non basta dunque a qualificare il potere cittadino del vescovo in una direzione determinata. Non è un rapporto giuridicamente feudale, certo, perché solo il concordato di Worms, come è noto, la potenza temporale delle chiese inclina ad assumere una tale figura modificando la sua originaria natura lodiale, ma tantomeno è un rapporto di normale delegazione di funzioni pubbliche ad un agente del re, perché il vescovo formalmente agisce per conto della sua chiesa, nel cui dominio, stando alla lettera dei privilegi a noi pervenute, esse risultano inserite patrimonialmente. Il re certo le può controllare, ma in quanto tutore delle istituzioni ecclesiastiche e del patrimonio e della potenza pertinenti a tali istituzioni, e in quanto teoricamente egli può controllare come supremo garante della pace nel regno, al di là di ogni distinzione di ecclesiastico e di pubblico e di privato. Questo era ancora il rapporto fra il regno e la città vescovile, quando fra XI e XII secolo spontaneamente si andarono enucleando organi cittadini funzionanti con crescente stabilità secondo norme loro proprie estranee all'apparato del vescovo. Si pose allora con maggiore chiarezza il problema di quella simbiosi istituzionale cittadina tollerata o riconosciuta o favorita dal regno, e nel linguaggio delle fonti si coglie, insieme con le nuove difficoltà e contraddizioni, qualche importante orientamento verso soluzioni inattese. L'esempio forse più significativo è quello offerto dalla cronaca milanese di Landolfo Juniore, in cui la nozione del regno come res publica distinta dalle istituzioni ecclesiastiche riemerge dallo sfondo proprio in connessione con l'orientamento autonomo manifestato dall'organismo cittadino. Occorre ricordare anzitutto la notissima assemblea del 1117, in cui le due tribune descritte da Landolfo Juniore esprimono la distinzione fra i poteri esercitati dalla curia arcivescovile e dal consolato. Ebbene, i consules urbis, come in quel contesto sono chiamati, sono in pari tempo indicati come consoli dell'arcivescovo, in quel medesimo contesto e in un passo che fa ulteriore riferimento a quel tempo. Consules eius, consules sui. Ciò non può non destare sorpresa quando si conosca l'autonomia di azione del Comune di Milano al principio del XII secolo, così che vi è stato chi, troppo arditamente trascurando il significato costante del termine consules nella cronaca, ha tentato di interpretare i consoli dell'arcivescovo nel generico significato di consiglieri, distinguendoli dai consoli della città. In realtà, l'incertezza istituzionale del consolato milanese fra l'attribuzione alla città e l'attribuzione all'arcivescovo trova riscontro anche altrove, per esempio nei documenti astigiani che Gian Giacomo Fissore ha recentemente analizzato sotto l'aspetto diplomatistico, documenti in cui l'immagine del comune di Asti ancora si integra come parte di un tutto culminante nel vescovo. È un'incertezza del resto che trova un altro riscontro in quella che abbiamo osservato nel documento cremonese del 1098 relativamente ai capitani ecclesie simultaneamente indicati come capitani civitatis. Ma l'esigenza manifesta in Landolfo Juniore e coerente con la sua posizione nella Chiesa milanese di collocare il consolato come magistratura nel quadro vescovile tradizionale della città coesiste con la diversa esigenza presente nel medesimo cronista e coerente con la sua cultura giuridica e con l'attività esercitata da lui presso i consoli come epistolarum dictator, di definire nel suo significato pubblico il comune nascente distinguendolo dall'istituzione ecclesiastica e ponendolo in correlazione col regno, in correlazione cioè con l'antica res publica, nella cui prospettiva la nuova res publica cerca una più razionale collocazione. Due luoghi della cronaca sono illuminanti a questo riguardo, se posti in confronto fra loro. Là dove si narra di una prova del fuoco del prete Liprando nel 1103 a Milano, Landolfo Juniore precisa l'acquisto del combustibile necessario così: «Tunc grosulani», questi era allora l'arcivescovo, «et rei publice ministri, quercina ligna ad flammam e ad calorem aptissima, triginta solidis denariorum emerunt». Chi sono questi ministri dell'arcivescovo e della res pubblica? Non certo agenti di Enrico IV o di Enrico V impegnati allora in Germania. Si tratta di umili impiegati del vescovato e del comune nascente che provvedono ad una spesa, sentito come urgente dalla popolazione, per definire la posizione di grossolano contestato da molti come arcivescovo. Ma in che senso gli impiegati locali possono dirsi, nel linguaggio di Landolfo, ministri rei pubblice, mutuando l'espressione dall'uso che tradizionalmente la riferiva agli ufficiali regi. Qui vale il confronto con un altro passo dove Landolfo promette di proseguire l'esatto racconto degli eventi concernenti la vita pubblica e religiosa così. Quia sincere aduc cupio scrivere eaque in ecclesia et in regno per pontifices et abates et sacerdotes et levitas et per consules et cives et alios ecclesie et regni ministros seminata et operata sunt non tantum ad augmentum sed etiam ad detrimentum religionis et recte consuetudinis. Non si può non rilevare la coerenza con cui sono posti a riscontro anzitutto l'Ecclesia e il Regno, poi i sacerdoti e gli altri ecclesiastici da un lato e i consoli con i cittadini dall'altro, con la duplice generica integrazione dei rimanenti ministri della Chiesa e ministri del Regno. Infine la religione e la retta consuetudine in virtù dei vantaggi e dei danni che quegli eventi causarono sia all'una sia all'altra. Religio e consuetudo non sono certo concetti che si escludono fra loro, ma l'uno è ovviamente correlativo all'Ecclesia e ai suoi ministri, mentre l'altro si allarga ad abbracciare ciò che è affidato ai consoli e ai loro collaboratori. A chiarimento è opportuno segnalare che nel ricordato episodio delle due tribune innalzate nell'assemblea del 1117, episodio raccontato da Landolfo ulteriormente rispetto al passo che stiamo esaminando, ai prelati che circondano l'arcivescovo su una tribuna fanno riscontro sull'altra tribuna intorno ai consoli i viri legum et morum periti, gli esperti dunque della legislazione pubblica e della retta consuetudine, così come gli ecclesiarum prelati sono gli esperti della religio. Il parallelo insistente nel passo ora in esame pone inequivocabilmente i consoli tra i regni ministri nell'accezione, nel significato, di ministri rei pubblici. Nell'atto di distinguersi dall'apparato ecclesiastico, le magistrature comunali e la civitas stessa come organismo unitario si dispongono spontaneamente nel quadro del regnum inteso nel senso specifico dell'antica res publica. Sopra abbiamo rilevato che non fu un rapporto di delegazione normale di ufficio fra principe e vescovo a conservare alle città italiane sottoposte al regime vescovile uno schietto carattere pubblico fino alle soglie dell'età comunale, bensì la loro stessa struttura sociale, a cui la potenza ecclesiastica spontaneamente si adeguò. Ora possiamo aggiungere, è vero piuttosto che appunto le città in Italia contribuirono a rinvigorire la nozione specificamente pubblica del regno divenuto fra X e XI secolo una potenza egemonica quasi informe, assai spesso tutrice di patrimoni episcopali, canonicali, abbaziali, che non organizzatrice di un territorio politico. Qui non vorrei essere frainteso. Se la città italiana, nella transizione all'età comunale, poté offrire questo contributo